demono Yeso ni guedete Ni guedete mono Yeso ni guedete Ni guedete mono Yeso ni guedete Ni guedete mono Coreto, me hoque co, coreniere.